Buongiorno dal TG2. Aumenta la tensione al confine con Libano e si teme una escalation. Ai raid dell'esercito di Tel Aviv, gli Hezbollah rispondono con il lancio di missili. Il premier israeliano Netanyahu punta il dito contro l'Iran, che reagisce con minacce di guerra. Proseguono anche gli scontri a Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente è Giovan Battista Brunori. Nuovi attacchi israeliani contro postazioni delle milizie filo-iraniane Hezbollah nel sud del Libano, dopo che ieri era ripreso il lancio di razzi contro lo Stato ebraico. Secondo l'intelligence americana, nelle prossime settimane potrebbe scoppiare un conflitto su larga scala tra Israele e Hezbollah se non si dovesse raggiungere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Israele non vuole la guerra al nord, ha affermato il ministro della difesa israeliano Gallant, e accetterebbe un accordo se Hezbollah si ritirasse dai confini. Intanto proseguono i bombardamenti nella striscia di Gaza. Secondo fonti palestinesi, 6 persone sono rimaste uccise a Gaza City, scontri anche ad Al-Maghazi. A Rafah l'esercito ha trovato armi ed esplosivo, ma l'operazione militare sta per terminare. Come ha affermato nei giorni scorsi il premier Netanyahu, forze israeliane verranno dislocate verso il confine nord con il Libano per scopi soprattutto difensivi. L'Iran e i suoi alleati, come gli Hezbollah libanesi, ha affermato il premier, costituiscono la principale minaccia per il Medio Oriente.